Bambè, la tua me ha già vedo, ti spinge il tuo dimone, e il tuo dimone son io, e me trascina il mio, nel quale io credo in te. L'amor è nulla.